se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. Well, she's walking through the clouds with a circus man that's running wild. Butterflies and zebras, the grooming fairy tales. Sì, siamo scesi. Ho preso la bambina, ero in pigiama, se ti può essere d'aiuto. Ho preso la bambina in braccio e il portafoglio, le due cose più importanti, ho lasciato la mamma in camera. E siamo andati. She looks at me with a thousand smiles. She gives to me free. Io ero in una zona antisismica e ho deciso di fare questo weekend in una zona sismica. Fortuna. Abbiamo degli amici a Sulmona e abbiamo pensato di venire qui. Anche un po' volendo sdrammatizzare, abbiamo fatto la chat di gruppo che era viaggio nel terremoto. C'è stato il terremoto. Poi siamo comunque rimasti un paio di giorni convivendoci con la paura. Sto andando in Puglia dove c'è la zona è blu, è blu e calma, quieta. Venite lì. C'era anche Checco Zalone nelle zone del terremoto. Sì, sì, proprio lui, Checco Zalone. Che era lì e con la sua consueta ironia. Così cerca di sdrammatizzare una situazione che è tutt'altro che semplice. Adesso ci si mette anche la burocrazia, eh? Bisogna leggere alcuni articoli tra le migliaia di pagine. Devo dire anche, non so se lo devo dire, allora, inutili, perché insomma dopo un po' sinceramente sono anche un po' troppe, però tra queste tante pagine ci sono delle cose molto interessanti. Per esempio, il fatto che c'è la burocrazia adesso che ci si mette di mezzo. La burocrazia, guardate, il sindaco di Ussita racconta che non sa come abbattere una chiesa che è rimasta semi distrutta, cioè evidentemente rimangono monconi di chiesa, di una chiesetta, no? Dice la devo abbattere e non si può, c'è tutta una procedura, il Ministero dei Beni Culturali, e lui giustamente dice a costo di farmi denunciare la abbatto io. Il sindaco di Ussita la abbatto io. Oppure c'è questa storia degli sfollati che non vogliono lasciare le loro case, questo è sbagliato, però gli si deve dare una sistemazione. Molti vanno in albergo e ci sono gli allevatori, per esempio di Norcia, della valle, che dicono: e che faccio, porto le mucche in hotel? Può sembrare un problema di poco conto, ma che fa l'allevatore? Che faccio, porto la bestiame nella hall dell'hotel? Effettivamente, per carità, non c'è una soluzione, non è facile, non è, è tutto complicato, però non è neanche flessibile, ecco, la situazione, e quindi complicazioni. Comunque, buongiorno cari signori, questa è 24 mattino. Siamo nel Parlamento alle 6:34 minuti. Ah, poi c'è questa, attenzione, giusto per parlare d'altro. Sì, c'è la possibilità, udite udite cari italiani, che il referendum possa essere anche spostato, rinviato. No, vabbè, io non la dico neanche come rinviato. Entro la settimana c'è infatti pendente il ricorso dell'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida e c'è una giudice, una donna, da cui pende il destino del referendum. Si chiama. Oh, porca miseria, mi perdo tutto. Tutto. Loretta Dorigo, giudice alla prima sezione civile del Tribunale di Milano. Lei dovrà decidere questa cosa. Allora, comunicazione di servizio. Intanto voglio salutare il super mega dir, il direttore di Vantifair, Luca Dini. Buongiorno Luca, come stai? Buongiorno a tutti, ciao, sì, sto bene. Succedono delle cose fantastiche. Allora, saluto Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione che mi comunica questa cosa. La giro a te, Luca. Non va il cellulare della Saluzzi. Che voglio dire, cara Paola, se ci ascolti, questa comunicazione di servizio dei potenti mezzi di Radio 24 è questa: non vai, che non si sa se non va il cellulare della Saluzzi, non va il nostro telefono, non vanno le linee telefoniche, non vanno i ponti radio, non va, non si sa. Comunque, cara Paola Saluzzi, se hai un metodo alternativo tipo piccioni viaggiatori, SMS, WhatsApp per comunicare, facciamo in qualche modo alternativo e noi siamo qua. Allora, apriamo subito il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Allora, saluto. Basta con la solita radio. Ecco. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Ecco che con la abbiamo scherzato. A casa di Paola. No, eccola, casa. No. Andremo tutti a casa di Paola. Cara Paola, cosa è successo? No, Imperdonabile. Giuro, ero sveglia, il telefono non squillava. Ah. Perché semplicemente l'ho lasciato silenziato. Non va il cellulare della salute. Pensa a Lorenzo Nespoli come si salvava, già dava colpa alla tecnologia. Stavi a dormire! Ha ragione. Sicuro orribile. Allora, no, non stavo a dormire. Infatti, il telefono che per me era dimenticato in un angolo. Sei infatti bella sveglia. Ragazzi, scusatemi. Buongiorno, bentrovati. Allora, ti do il buongiorno da Luca Dini. Ti do il buongiorno da un nostro affezionato buongiorno, ascoltatore Paola. Che è Alberto, ci ascolta da Minneapolis sempre in questo momento. E soprattutto questa, cara Paola. Guarda, ti giuro, non me la sono inventata. Sono in Australia in cucina che faccio gli gnocchi. Bacioni a Paola, dedicati a lei i miei gnocchi. Ma che meraviglia! Insomma, il nostro ascoltatore. Ma che meraviglia! Vedi il numero? Sì. 0061 è meraviglioso. Nonostante io mi sia comportata male stamattina, pure gli gnocchi mi dicono dall'Australia arriveranno belli freschi dall'Australia. Va bene. Stupendo. Poi un giorno ti racconterò come una volta io abbia ricevuto una proposta di matrimonio dall'Australia. Ma perché un giorno? Ma raccontacelo subito. Ora. Meraviglioso. Allora, uno mattina, sì? Credo fosse la prima edizione, 98-99, sì? Mi arriva una lettera, sì? Di un allevatore di pecore, italo-australiano, che mi manda una lettera tutta forbita, mi manda le foto della casa, dell'allevamento. Sì? Giustamente, giustamente mette in piazza tutto ciò che può offrire. Ciò che può offrire. E alla fine mi chiede di sposarlo. Ma ho trovato una cosa bellissima, non l'ho sposato, ho fatto bene, ma al di là di questo aspetta perché ti mettiamo anche... Senti. Questo poteva essere i potenti mezzi di Radio 24. Ringraziamo Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè. Poteva essere il tuo modus vivendi, il tuo... Caro Peter, ma è vero che l'alpino si è sposato? Ma certo. Ma che bella notizia. Si è sposato, è tornato. Ma che bella notizia. Ha portato dei confetti alla grappa. Niente, sei in fase matrimonio, cara Paola. Matrimoni dall'Australia. Peter si è sposato. È così. Ma perché non ci hai pensato neanche un secondo di andare a vivere tra le pecore in Australia? No. Ti è piaciuta così la cosa? Così, l'ho trovata romantica e mi è piaciuta così. Dai, caro allevatore, se sei ancora all'ascolto dai tempi di Uno Mattina, sappi che mezzo secondo ha pensato di dire. Mi dispiace, poi pensa se alla fine fosse stato come Hugh Jackman. Vabbè. Perché non c'era la foto sua, tu capisci? Ma la foto della casa, mandi la foto. La puoi parlare come Magalli, dai. Magari era come Magalli, no, sì, esatto. Va bene, ovviamente ragazzi, anche ragazzi ci ascoltano più dall'estero. Saluto anche il nostro mitico Remo che ci sta ascoltando dalla Dig in questo momento. Ci dice 32 gradi e cielo blu dalle Seychelles. Siamo alle Seychelles. Va bene, allora veniamo alle cose italiane. Non so, io questa burocrazia, che per carità adesso si scopre che c'è la burocrazia. Luca, non è che scopriamo la burocrazia adesso che c'è il terremoto, no, però, per carità. Però dovremmo fare qualcosa per aiutare queste persone. Non so neanche cosa. Ecco, vedo che arriva a fianco a Cantone, questo racconta Repubblica, Tronca, ve lo ricordate? Per la ricostruzione, sì. Per vigilare che non ci sia la mafia, giustamente. A controllare, però che gli dobbiamo dire a queste persone che non vogliono per esempio lasciare le loro case? Cosa dobbiamo fare? Ma che cosa gli possiamo dire? Bisogna convincerli quando si può, però capire anche, perché a parte il discorso degli allevatori che è chiarissimo, poi non so se ci sono delle situazioni tipo andare a dormire altrove la notte, ritornare di giorno, lo so che è complicatissimo, stressante. Speriamo che arrivino delle sistemazioni provvisorie, i famosi container, il prima possibile. Però in questa fase bisogna soltanto aiutare, consolare e capire, perché la gente che non vuole andare via è una reazione normale, succede sempre. Eh no, è chiaro, è chiaro. Uno vuole, tra l'altro vogliamo ricordare, tu Luca sei anche di quelle zone, conosci? Sì, fortunatamente non proprio quelle, però ho molti amici lì. I miei familiari chiaramente hanno avuto paura, nessuno si è fatto niente, però ecco, capisco perfettamente, ho parte della mia famiglia che ha dovuto vivere tutta quella storia della burocrazia, della ricostruzione. Quello che mi sento di dire è che gli stessi discorsi li ho sentiti più volte, tipo è tutto finito, qui non c'è più niente, non sarà mai più come prima, ecco. Bravo. Mi sento di dire che non è mai così. Non è mai così. C'è sempre un dopo che non è uguale, ma non è la fine, i paesi ritornano a vivere, ci si dimentica quasi che è un bene e un male, è un bene perché bisogna sopravvivere, è un male perché poi quando torna il terremoto sembra sempre che sia un evento eccezionale e non lo è, per non lo è purtroppo. Per esempio c'è questa cosa, cara Paola, lo so che è delicata perché si entra nella situazione di persone che hanno perso tanto, ma anche oggi sul Corriere della Sera, e lo voglio rileggere perché quando l'ho detto la gente mi attacca, dice ma guardate che il Giappone non ha la nostra storia, a parte che non è vero, il Giappone è una storia millenaria come noi, di case costruite, magari costruite in legno, che è materiale migliore e più resistente al terremoto, però il Corriere punta al fatto bisogna e si deve ricostruire le case in maniera antisismica. È vero che costa, cioè come tutto, costa. Ma Alessandro, il Gemona del Friuli, nel 1976, è un terremoto che ha insegnato come si ricostruiscono oggi, chiaramente dal 76 oggi, capiamo bene che sono passati 40 anni, è cambiato qualcosa. Si possono ricostruire le case con il muro, all'interno un'anima in ferro e fuori la pietra. Che ricordo, nel caso del Friuli, ci sono state chiese e case che hanno avuto le pietre numerate per non essere perse. Allora, si può ricostruire in maniera antisismica, si può ricostruire in maniera antisismica tutelando quelle caratteristiche che hanno reso i vicoli, le strade, le piazze di Norcia, di Castelluccio di Norcia, di Ussita, di luoghi che piange il cuore vedere ridotti così in questo momento, assolutamente identici a come erano. È una sfida alla quale siamo chiamati da un punto di vista di architettura, di idee. C'è stato, non mi ricordo, a Dentro i Fatti tutti i giorni su Sky io sento solo storie e voglio solo storie, c'è stato un sindaco che ha detto chiamiamo le migliori teste, le migliori menti, le migliori persone che abbiano idee per creare una ricostruzione che rispetti come eravamo, ma faccia diventare non indistruttibili, perché di distruttibile non c'è neanche l'Everest. Certo. Va bene? Però è chiaro che tutto ciò ha un costo, perché non è che si fa... Siamo un paese che deve mettersi di fronte a questo costo. Io credo che la tenacia della gente che dice non vogliamo andare via sia la prima leva per accelerare e mettere in piedi un modo nuovo, anche se nuovo non è, ribadisco, ha fatto scuola il Friuli sotto tutti i punti di vista, tutti, nuovo non è, però deve essere attualizzato, e questa gente che non vuole andare via sarà la leva per fare incominciare al più presto questo tipo di ricostruzione. Sì, è assolutamente, però così. Posso aggiungere una cosa velocissimamente? Che poi però bisogna anche essere consapevoli di che cosa, di quello che ci si deve aspettare, perché allora o si costruiscono delle cose tipo chiaramente la scuola, per esempio, ci sono dei metodi costruttivi nuovi da zero che rendono la scuola resistente a terremoti molto molto più forti di questi, ed è quello che si deve fare. Quando si va a intervenire su delle case di quel tipo, bisogna anche capire che è una scelta che si fa. Quando tornerà un terremoto, l'obiettivo non è che la casa rimane intatta, ma che non ti caschi addosso, perché poi bisogna anche promettere alla gente le cose reali. Esatto. Quella casa lì, però, se passa un altro forte terremoto, andrà riparata. Direttore, la scuola di Visso, che è stata costruita con criteri antisismici, non ha una crepa. Infatti, una crepa, quello è un grande risultato, come dovrebbe essere. Intanto, guarda, si aggiungono sempre, tra poco andremo anche all'estero con i nostri ascoltatori. Angela ci ascolta da Berna, dice: sono solo a Berna, ma saluti anche. No Angela, ma va benissimo anche Berna. Cara Paola, tu hai lanciato questo... San Marino. Ma perché sei a San Marino? No. Non lo so. Cara Paola, ci hai raccontato del matrimonio e adesso l'uomo degli gnocchi dice: vieni da me. E ringrazio, ma basta. Ha già dato. Gnocchi, ma sono felicemente sposata. Ha già dato. Basta provarci. Sugli gnocchi. No, cioè che cosa sugli gnocchi? No, niente. No, dai, adesso ce l'hai detta. Ma dai, gioco di parole. Ma allora andiamo avanti. Vabbè, andiamo al traffico, forza. Ecco, traffico. Su, traffico. Non so se votare sì o votare no. Fammi pensare, Mila, mandami il traffico, per favore, traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Devi piantarla di dare del razzista al popolo che difende il proprio posto. Ah, Italia, il bel paese della cultura, il paesaggio, il buon cibo. No, l'Italia è il paese dei cavalcavia che crollano e del cemento depotenziato. Milan, quando c'è la Saluzzi fai più fusa di Caterina. Miau, miau. Pa pa pa pa pa brand. Pa pa pa pa pa brand. Noi italiani siamo uniti solo nelle catastrofi, ma non potremmo collaborare un po' di più anche quando non ci sono delle tende da montare? In Parlamento da mesi si stanno scannando per decidere se tenere una o due camere. Ecco, adesso ne servono 40.000 di camere. È un po' così, è vero, noi siamo uniti. Intanto faccio le fusa, come sta Caterina? Caterina in questo momento è davanti alla finestra, sì? Che con aria 4-4 sta guardando il piccione. Ah, attenzione. Ma credo che il piccione avrebbe comunque la meglio, perché la insomma lei è una gattina. Tanto gatto con l'unghietta. Vabbè, ho capito. Però è molto divertente. Ma che gatto è? Allora spingila un attimo giù. No, scherzo. Ma non ci penso proprio. Ma Milan, ma cosa dite? Vabbè, ma vuol fare un editoriale? Vuol fare un editoriale? Assolutamente no, andiamo avanti. Va bene. Giuro, allora, caro Luca Dini, tra poco andiamo a conoscere il nostro amico dall'estero, ma volevo chiederti questo, questa storia del referendum, ma lo sai che veramente forse lo rinviano? Io mi ero appuntato il 4 dicembre come la data della liberazione, comunque. Ma com'è possibile sta roba? Fai un appello. Non so, questo giudice... Cara Loretta. Cara Loretta. Cara Loretta. fai qualcosa, ti prego, perché esatto, diciamo non ci importa, siamo già più, non siamo né per il sì né per il no, lo dico così, uguale, caro, caro, uguale, siamo per il basta, siamo per il basta, cara Loreta, virgola, si voti, punto esclamativo, basta, va bene, Paola, puoi anche tu sottoscrivere con firma, raccogliamo 500.000 firme, le mandiamo subito, le mandiamo a Loreta, giudice che deve decidere sul ricorso di Valerio Nida, e va bene, basta, così. Va bene. No. Che si voti. Fatto, che si voti. Va bene, dai, andiamo all'estero, andiamo all'estero. C'è un nostro ascoltatore che ci ascolta. Non dall'Australia, non dalla Svizzera, non da Minneapolis, non da le Seychelles, ma è il nostro Emiliano. Dov'è Emiliano? Dove sei Emiliano? Buongiorno. Buongiorno. Sono a Tolosa, in Francia. Tolosa, Francia. E che ci fai lì a Tolosa, in Francia? Lavoro beh, sì, come questo. Molti italiani qui a Tolosa. Questo è bello. In che cosa si può... Allora, lavoro per una nota azienda aeronautica che fa aeroplani. Non so se posso dire il nome in certo radio. Che puoi dire, certo che puoi dirlo. Airbus. Credo sia cioè ci porti in giro per il mondo. Beh sì, insomma, prendo un Airbus, cos'è il più famoso? Il 380, giusto? 380 è il più famoso, ma diciamo quelli che fanno il corto raggio 320 sono molto diffusi anche loro. Va bene. E che si dice in Francia? Di che si parla in Francia? Qual è il tema principale? Di che si parla? Ma i temi principali sono un po' come quelli che sentiamo in Italia. Io ho parlato un po' con mia moglie anche per mettermi al corrente, perché ho fatto i compiti a casa. E le presidenziali americane sicuramente sono un po', diciamo, il focus principale. Mm-hmm. Poi ci sono le presidenziali francesi che arriveranno presto l'anno prossimo. Come no? E il Partito Repubblicano avrà le primarie il 20 novembre. E un tema abbastanza scottante è quello degli immigrati e del campo di Calais, la jungle, stato chiuso in questi giorni. Ci sono state molte polemiche, ci sono ancora diciamo delle ridistribuzioni di persone in tutta la Francia dal campo di Calais. Mm-hmm. Ci sono stati anche dei problemi di sicurezza legati a questo campo. Tematiche come proprio da noi, insomma, le tematiche d'altronde della Francia, insomma, molto differenti. Siamo a due passi. Vuoi, anche se sei sposato, separarti subito e fare una richiesta di nozze a Paola Saluzzi qua in diretta? Perché dall'estero pare che ne arrivino molto. So mia moglie si è appena svegliata e già mi guarda male perché sto parlando a voce alta sto svegliando il bambino. Però non so, Paola, vuoi in Francia? Ma per cortesia, ma questi sono scherzi da Lino proprio, ma io non ho parole. Comunque, signora, siamo in diretta su Radio 24, ci perdoni, suo marito ha questo vizio di ascoltare 24 mattino anche dall'estero. Adesso... Mi odia un po' per questo e per la zanzara la sera. Va bene. Allora, per la zanzara possiamo capirla, ma per 24 mattino continua. Ma no, 24 mattina ti chiamo 24 anche a 24 mattino. Esatto. Emiliano, ti mandiamo un abbraccio, mi raccomando, metti giù piano e non disturbare troppo tua moglie. E grazie ovviamente da Tolosa, grazie Emiliano. Buona giornata a tutti. Allora, intanto ci scrive anche da Champigny sur Marne, vado al lavoro, ciao. Ma ragazzi, ma sembra che fate apposta, ma in realtà è così, caro Luca, dobbiamo fare un libro, un fil rouge a tutti i nostri ascoltatori all'estero. Io sono in viale Bligny, è abbastanza esotico. da Bligny sur Marne, da Bligny sur Marne, esatto. Vabbè, eccolo qua, Charlize Theron che ci guarda, un uomo. Ma Charlize Theron quanti anni ha? 41, va bene. È perché è da tanti anni che è sulla cresta dell'onda. Cosa ha fatto? Cioè, perché in copertina? Perché ha 20 anni di carriera, proprio in questo giorno. Non si direbbe. Da attrice. Non si direbbe. Bene. Però parlate anche di Gorino, Lampedusa, questa cosa dell'immigrazione non ti ho chiesto niente. Perché anche questi argomenti... Ma perché l'affrontiamo in Italia sempre così, in quei modi? Beh, diciamo che un po' è colpa nostra e un pochino no, perché... Ce la mettono anche nel modo peggiore possibile. La storia di Gorino, che non è bella, va anche un pochino interpretata, perché